L'asino carico di spugne e l'asino carico di sale. Da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Con gravità d'imperator romano, un asinaio, col suo scettro in mano, guidava due corsier di asineria. L'uno di spugne carico, con chiasso muoveva i piedi veloci, l'altro, carico di sal, stentava il passo, come se camminasse sulle noci. E va per valli, e va per strade e monti. Le brave bestie arrivan finalmente al guado d'un torrente, che a piedi asciutti non si passa mai. Il buon uom, che fa senza anche dei ponti, salito in groppa a quello delle spugne, come era naturale, caccia davanti l'asino del sale. Questo, volendo far di propria testa, dopo giri e rigiri entra in un gorgo, così fondo che quasi mi ci resta. Ma a furia di sgambetti in quella piena, la bestia fece in modo che non sentì più peso sulla schiena. Tutto il suo sale s'era sciolto in brodo. Supponendo anche lui d'uscir d'affanno, Mastro Spugnaio volle far lo stesso, a guisa delle pecore che ciò che l'una fa le altre fanno. Entra nel fiume infino che gli giunge l'acqua alle orecchie e vi beverò in tre, il mulattiero, l'asino e le spugne. Ma queste spugne, ahimè, fatte del troppo ber troppo pesanti, resero il bel servizio di tirar la bestia in precipizio. Bestia e padrone vi sarebber morti e senza remissione, se non li soccorreano anime buone. A noi basta aver visto, a nostra vera istruzione morale, che se tutti fan tutta una maniera, si casca in fondo e ci si perde il sale. Fine della favola, l'asino carico di spugne e l'asino carico di sale. Questa registrazione è di dominio pubblico.